Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte seconda, lezione 20. Oggi mi piace portare il sito web alla vostra attenzione. Un sacco di informazioni si possono trovare su internet. Ci sono diversi argomenti su internet, ma non tutti sono disponibili in lingua inglese. Tuttavia, ciò che è sul sito è gratuito per coloro che vogliono entrare. Il vantaggio di internet è che ognuno è libero di fare quello che vuole fare. Uno ha più tempo di un altro, non importa. E scegli ciò che fa per te. Se vuoi accelerare, scegli più argomenti. È importante sapere che Zohar non è abbastanza. Hai bisogno di più soggetti per arrivare alla piena comprensione. C'è abbastanza, e se guardi, per esempio, ad Israele, vedi la differenza. Ora voglio iniziare da dove mi sono fermato la scorsa settimana. In questa lezione provo ad approfondire la formula di salvataggio. In un certo modo l'essenza dell'intero Zohar sta in questa formula di salvataggio e non c'è nessuno al mondo che capisca questa formula. Conoscere il Creatore che ha creato il mondo in un modo molto evidente e tuttavia nessuno lo vede questo. È tutto così chiaro, eppure l'umanità non lo prende sul serio. Tranne qualche grandissimo saggio, non c'era nessuno che lo vedesse e lo capisse questo, né nella religione ebraica né in altre religioni. Nessuno aveva la capacità di parlarne, di spiegarlo a parole. Le religioni hanno i loro difetti, ma tuttavia hanno le loro storie e sculture. Per loro Hashem è una scultura, ma devi sapere che non puoi immaginare Hashem in nessuna scultura o dipinto, perché lui non ha un'immagine. Ari ci avverte, ed è scritto nella Torah, gli occhi del Creatore sono focalizzati su. Agli occhi, o il Creatore ha portato il popolo di Israele fuori dall'Egitto con un braccio teso. Lui ha le braccia. Ci sono molti esempi e sono necessari per darci un'idea di cosa si intende spiritualmente. Nello spirituale ovviamente non ci sono immagini, e tuttavia le nazioni hanno fatto immagini, sculture, eccetera. Ed essi possono farlo, ma non il popolo ebraico. Altre nazioni hanno accanto al Creatore qualcuno che idolatrano, inseriscono i loro nomi da soli. In ogni caso, finché l'uomo non ha lo sviluppo adeguato, ha il desiderio di fare immagini. Ma se per esempio Gesù vedesse tutti i dipinti, le sculture fatte di lui, egli vorrebbe essere crocifisso di nuovo. Davvero, una foto è l'idolatria nella sua forma più estrema. Eppure nella Torah e nello Zohar puoi vedere tutti i tipi di immagini, ad esempio la Shoshanah, il giglio. Questo è fatto solo per darti un'idea di ciò che è spirituale. Ma devi sapere che il vero spirituale non ha quadri o immagini. C'è solo esperienza. Metti nel tuo cuore che non c'è immagine del Creatore, solo l'esperienza del Creatore. Sperimenta la vita e sperimenti il Creatore. Il Creatore è 10 sfirot, o 5 sfirot, o 5 gusti, e puoi solo sperimentarli. Nessuna immagine, solo esperienza. Non c'è altro modo di conoscerlo. So che è difficile capire senza disegni, e tuttavia non faccio disegni. Molti di voi iniziano a combattere se non hanno disegni. Alcuni di voi rispondono perché sono così convinti di avere bisogno di un disegno, ma io non cedo. I disegni non ti aiuteranno, sebbene tu lo senti diversamente. Decisamente non ti aiuteranno. Posso dirti qualcosa sulla tua religione, e tuttavia la tua interpretazione è ancora a un livello infantile. Oggi voglio dirti qualcosa, non è sulla storia, ma di ciò che senti durante i miei discorsi. La difficoltà sta nel fatto che vuoi ascoltare la storia, invece di sentire i tuoi kelim. Cerca di non combattere. Meno combatti, più posso trasmettere. Non sono autorizzato a dire cose che non aiutano. Altri lo fanno, ma non io. Le cose che ti dico danno vita. Pertanto è molto importante che tu non abbia resistenza. Cerca di capirlo. Le cose che sono autorizzato a dirti vengono in me e devo convertirle in parole. In questa lezione cerco in generale di dirtelo. Lo Zohar lo spiegherà a noi, ma se c'è resistenza scapperà e non accadrà nulla. Cerca ad esempio nella religione di Gesù o Yeshua. Hanno capito qualcosa? I suoi discepoli lo hanno capito? Non capivano nessuna parola di ciò che lui diceva. Tutti loro appartenevano a questo mondo. Naturalmente la loro intenzione era buona, ma tuttavia la loro comprensione non era ancora sufficientemente sviluppata. Ad esempio il Nuovo Testamento. Guarda alle fonti da cui hanno citato l'Antico Testamento e guarda le parole ebraiche. Allora vedi che non erano ancora maturi. Ma tuttavia la loro intenzione era buona, non era così male, ma devi sapere che il loro sviluppo non è stato sufficiente. Qual è l'indicazione? Se guardi al Nuovo Testamento, lo sanno tutti. Lo hai letto? Tutti dicono, non capiamo quello che tu dici, perché lui parlava dello spirituale e avevano fatto delle immagini. Sai cosa intendo? Faccio esattamente lo stesso, non c'è differenza. Ogni generazione ha un Mosè o un Yeshua. Questo non significa che io sia uno di loro. Non mi interessa. Sono una persona comune la cui disfunzione è parlare dello spirituale. La cui funzione è parlare dello spirituale. Quello che voglio dirti, se fai immagini, non succederà nulla. Lascia andare la resistenza e lascia andare il desiderio di fare immagini. So che questo è un processo lento e può richiedere anni, quindi fare il più possibile, non solo leggere lo Zohar, ma anche approfondire gli altri argomenti disponibili sul nostro forum. Alcuni studenti fanno tutti gli argomenti e la loro crescita è sorprendente. Come mai? investono in se stessi. Come ho detto, niente viene dall'alto prima che sia incoraggiato qui sotto. Non importa che il loro sviluppo vada più veloce. Ognuno di noi è libero, ma posso vedere la differenza tra loro che seguono tutti i corsi e quelli che seguono solo uno o due. Non pensare che uno sia migliore. Tutto ha a che fare con il tuo sviluppo. Per ora è abbastanza. Dipende da te, ma devi sapere che io vado sempre più in profondità. E se vuoi tenere il passo, vedi tu stesso quanto puoi investire. È aperto a tutti. Nota: non c'è Etz Haim in lingua inglese. Se qualcuno è interessato a Etz Haim, può contattare Tineke Kivitz. ccki-vits@yahoo.com. Stating Learning Etz Haim. I 10 Sfirot sono così importanti. Ogni cosa si trova nei 10 Sfirot. Non importa se disegni i 10 Sfirot, perché se lo fai in modo corretto e comprendi i punti di forza nascosti nei 10 Sfirot, l'importante è che non fai immagini. Per quello che sto per dirti, ho viaggiato in tutto il mondo. Ero un uomo d'affari di grande successo, quindi potevo viaggiare e ho viaggiato molto. Sono stato ovunque per ottenere risposte, ma nessuno poteva darmi risposte. Ero pronto a pagare ciò che era necessario per ascoltare le parole che sto per dirti. Nessuno ha mai ascoltato, nemmeno un santo né un discepolo. A tutti loro mancava la comprensione, perché il tempo non era pronto. Ancora oggi è dato a pochi. Chi può dirlo? Ho viaggiato in tutto il mondo e ho partecipato a molte conferenze e seminari. Ma chi racconta la formula del salvataggio? E la formula di salvataggio è il tema più importante da cui dovrebbe iniziare. È la differenza tra vita e morte. Le cose che stai per leggere, ponile nel tuo cuore. Non è necessario che tu li capisca. L'importante è che guardi con i tuoi occhi, prendi le parole e non avere resistenza. Vuoi conoscere il Creatore, quindi leggi le parole e intagliale dentro il tuo cuore. Può essere difficile per te, ma sappi anche che non c'è pietà nello spirituale. Sei libero di leggere o chiudere il sito web. Dipende tutto da te, ma devi sapere se vuoi la vita, se vuoi essere connesso con il Creatore. Non dico di seguirmi né di parlare di religione. Ciò che dico è di aiutarti a prendere vita, a giungere in contatto con il Creatore. Questo è il mio massimo desiderio. Quindi presta attenzione e non cercare di combattere dall'interno. Concediti completamente e fidati che accadrà anche a te. Comincio dalla destra. Devi sapere che nell'ebraico andiamo sempre da destra a sinistra. Ti ho detto che ci sono 5 sfirot: Keter, Chochmah, Binah, Zerampin e Malkut. In ogni cosa ci sono questi 5. Ti ho anche detto che la luce si limitava. Il grado successivo fu il grossolano, e il mondo dell'impurità fu formato, e Malkut fu l'ultima fase a ricevere la luce. In un certo modo Malkut fu quella che ricevette ogni cosa che era nella luce, ma se ne stava in questo modo non ci sarebbe stata, ma se stava in questo modo non ci sarebbe stata una creazione. L'intenzione del creatore era di creare una creazione indipendente, che significa che ci sarebbe stato di più che il solo ricevente. Il grado successivo fu che a Malkut non era più permesso di ricevere la luce. In questo modo lui poteva formare un Kli. Kli è luce, per lui era necessario che lì ci fosse stato un ricevitore per la luce. Un Kli e non Malkut, che significa che ora c'era una sfira in meno che poteva ricevere la luce. In questo modo lui ha creato una separazione in questi 5 sfirot. Domanda: non riesco a capire perché a Malkut non è concesso di ricevere. Pensavo che Malkut era quella che doveva ricevere. Risposta: quindi sei qui. E tu sei qui da molti anni e molte volte. Ora non è il momento di spiegare. Non voglio tornare all'inizio. Il tempo stringe. Il fatto è che vuoi capire con la testa, e finché non puoi lasciare andare la resistenza, non funzionerà. Molte volte ti ho detto di lasciare andare il pensiero e di aprirti. Se non lo puoi fare in questa vita, non sarà la tua parte. Significa che non saresti in grado di avere una relazione con il Creatore. Basta ascoltare. Così è stato costruito in Atzilut. Malkut salì al proprio posto sotto Kokhmah. Il motivo non è importante. Ci sono 5 sfirot. Qual è stata la ragione? Nel processo di creazione, il creatore vide impossibile che 4 sfirot ricevessero la luce e non Malkut. Se dovesse restare in questo modo, non ci sarebbe perfezione, completezza. L'intero significato è venire lentamente alla perfezione, alla completezza, quindi lui ha visto la necessità di Malkut. Malkut è Din e non ha solo il significato di severità, ma anche di legge, la severità della legge. Ovunque c'è limitazione, c'è Din. Se parliamo di una legge severa, significa che c'è Din. Guarda ad esempio al tribunale, è tutto Din. Non pensare che sia sbagliato, ma vedi misericordia in un tribunale? Nessuno vede pietà, c'è solo la legge e quello è. Naturalmente ci sono circostanze attenuanti, ma è ancora una legge. Lo stesso con Malkut. Guarda, se Malkut non potesse ricevere, non ci sarebbe la possibilità di darle luce e non sarebbe una forza indipendente. Se tutto va dall'alto al basso direttamente a Malkut, è possibile parlare di una creazione? Certo che no, sarebbe come un robot e il creatore ebbe un'altra visione. Naturalmente all'inizio c'era un tipo di religione tutto sfumato, ma l'idea del creatore era che alla fine dei tempi, come stiamo ora sperimentando, la Malkut effettuasse determinate transazioni come limitarsi, guadagnare forza e tornare al suo proprio posto, per cui riceve in un modo molto speciale la luce e quella è la formula di salvataggio. La formula di salvataggio è connessa con Malkut, che significa che tutti e cinque gli Sfirot ricevono luce. Per realizzare questo, il creatore, o in altre parole il sistema operativo, ha fatto una disposizione e poi l'ha proiettata su di noi. Ci comportiamo allo stesso modo. Il creatore vide che il mondo non poteva esistere con la sola severità. Se ci dovesse essere solo severità o legge, l'esistenza non sarebbe possibile. È scritto che lui mescolò la severità Gvura con misericordia Binah. Ti dirò cos'è questo. Binah è la qualità di dare. Malkut è la qualità di ricevere in questa creazione. E quando li mescoli, come? Se lasci salire Malkut a Binah, allora Malkut può ricevere a poco dal superiore. E in questo modo lei può costruire la forza con il meccanismo che è chiamato formula di salvataggio e che può venire giù. C'è un principio. Se un inferiore sale a un superiore, diventa come il superiore. Guarda senza. Lo Zohar ci dirà e ci mostrerà. Tutti sperimenteremo quando ti aprirai e lascerai andare la resistenza. Altrimenti rimarrai un bambino sociale religioso. Se hai il desiderio di diventare un adulto, maturo e in contatto con il Creatore, ma il fatto che stai leggendo questo dice tutto. Questo è l'unico posto, non vado da nessuna parte perché chi può ascoltare le parole? Ancora una volta, anche un vincitore del premio Nobel non può capire come mai. Non riescono a capire perché il loro intelletto è in mezzo. E per alcuni di voi è lo stesso, il vostro intelletto. Siete seduti qui, ma davvero, potreste benissimo anche essere seduti in un cinema. Continuo a ripeterlo, non può essere ripetuto abbastanza. Apritevi, rendetevi recettivi dall'interno e lascia andare la resistenza. Altrimenti tutto è per niente. Nel momento in cui lasci andare la tua resistenza, inizi a ricevere e per di più sarà l'inizio della tua esperienza spirituale. Senti, renditi sensitivo e le cose accadranno. Nessun professore riceverà né capirà perché il suo intelletto è in mezzo e non capirà mai perché la Kabbalah è data all'umanità. Più piccolo puoi farti, più ricettivo sei, è così. Molte volte hai letto della pietra d'inciampo. Questa è la pietra d'inciampo. All'inizio Yeshua parlava della pietra d'inciampo. Forse pensi che io parli molto di Yeshua, ma lui è così importante non solo per i cattolici, ma anche per gli ebrei, se solo potessero accettarlo. Lui ha parlato molto del regno dei cieli. Cosa ha detto? Nessuno può entrare nel regno dei cieli. Entrare nel regno dei cieli è difficile, come passare attraverso l'occhio di un ago. Questo è assolutamente spirituale, ma nessuno a lui lo aveva capito, anche in quei giorni nessuno capiva. Era un rabbi, un buon rabbi, ha capito e dato la Kabbalah ad altri. Nel III secolo fu dato il permesso di scriverlo, mentre Yeshua visse nel I secolo. Come rabbino ho molta affinità con lui, ma non con i cristiani. Ciò che hanno fatto, incomprensibile, come hanno fatto un Hashem da lui, decisamente non aiuta. Yeshua è stato il primo che ha provato a trasmettere la formula del salvataggio, ma nessuno capiva e non capisce, e posso assicurarti che nessun cristiano sarà salvato perché è impossibile. Come mai? Hanno fatto immagini. Hanno fatto qualcosa di essi che è chiamata teologia. Hanno fatto molto, eccetto ascoltare il messaggio nascosto nelle parole. Ti do il messaggio, ma hai bisogno di prepararti. Capito? Se Yeshua fosse qui, direbbe lo stesso. Ai suoi tempi usava altre parole perché i suoi studenti non erano così sviluppati. Ma non diceva «farai grandi miracoli, più grandi di me». Lui si stava riferendo al nostro tempo. Lui cercava di dire quello che ti sto dicendo ora. Lentamente, non combattere mai. L'intero significato e costruire dall'interno la forza di ricevere, che è la forza di Malkut, e portare Malkut a Binah, che è la forza di dare. Come sai, non c'è scomparsa nello spirituale. Quando Malkut sale a Binah, non scompare. Ciò che accadrà è un'aggiunta che significa che ricevi la forza di dare accanto alla forza di Malkut, che è la forza di ricevere. Capito? La tua Malkut non scomparirà. Tutti i punti di forza di Din, severità, rimangono con te. Dal mondo Azilut ci sono Keter, Kokmah, Binah, Zerampin e Malkut. Malkut de Malkut ascese a Keter. Keter ha 5 Sfirot. Keter de Keter, Kokmah di Keter, Binah di Keter, Zerampin di Keter e Malkut di Keter. Lo stesso con Kokmah, Keter di Kokmah, Kokmah de Kokmah, Binah di Kokmah, Zerampin di Kokmah e Malkut di Kokmah, eccetera, fino a Malkut, Keter di Malkut, Kokmah di Malkut, Binah di Malkut, Zerampin di Malkut e Malkut de Malkut. Questa Malkut, la Malkut, salì a Keter. Ora lei è in piedi sotto Kokmah, è chiaro? Ti ho detto che il Creatore ha fatto una disposizione affinché la Malkut de Malkut potesse stare sotto Kokmah. Perché? Come sapete, c'è una Parsa e sopra la Parsa la luce può essere ricevuta, ma non sotto la Parsa. Cosa ha fatto il Creatore per ottenere la luce sotto la Parsa? Sopra la Parsa, là, la luce di Kokmah può essere ricevuta, ma non sotto la Parsa. Lì la luce di Kokmah non può essere ricevuta. Come mai? C'è una semplice ragione, e cioè che non c'era la forza per ricevere. L'inferiore va ai desideri più pesanti a causa di questo. A causa di questo c'è lo spazio per i clipot sotto la Parsa. Ci sono le forze impure. I clipot non possono venire sopra la Parsa. Nel mondo Azilut, lui fece il provvedimento che Malkut de Malkut poteva elevarsi a Keter, o in altre parole, qui Malkut de Malkut era nascosta nel Keter, e Kokoma perché non poteva ricevere. Ascolta attentamente, Malkut ha anche 5 Sfirot, ma solo 4 potevano ricevere, ma non l'ultima, perché l'ultima è la creazione stessa. Come mai la Malkut de Malkut non poteva ricevere? Per la semplice ragione che lei ha dovuto fare spazio per la creazione, perché se Malkut potesse ricevere la luce in tutti i suoi 5 Sfirot, dove sarebbe il posto per la creazione? Se gli uomini potessero ricevere nelle sue 5 Sfirot tutta la luce, è possibile parlare di uomini? Dove sarebbero gli uomini? Infatti, da nessuna parte. Pertanto, ogni persona ha la sua individuale Malkut de Malkut, e lei è il centro epico del tuo desiderio di ricevere. In questo puoi vedere quanto è vuota una persona quando dovrebbe essere completamente altruistica. Non è possibile, ricordalo. Gli uomini sono fatti con carenza, che significa che la sua Malkut de Malkut non può ricevere la luce. Ecco com'è. Ogni persona, tutta l'umanità è afflitta con la Malkut de Malkut e non ha il potere di correggere questa Malkut fino all'arrivo del Messia. E quando lui arriverà, si verificheranno altre trasformazioni. Ricordate che tutti sono, è stato creato in questo modo, anche Yeshua. Non pensare che lui abbiamo bisogno di crescere, diventare maturi. Se parlassi del giudaismo, allora mi accuseresti di avere sbagliato, perché potresti accusarmi di essere contro il cristianesimo o contro qualsiasi religione c'è nel mondo. Questo è successo con Yeshua perché le persone non erano cresciute. Pertanto voglio sottolineare che non sto parlando del giudaismo. Per me ogni forma di cristianesimo o giudaismo o qualsiasi altra forma ci sia, per me sono tutti sciocchi. Lascio agli altri parlare delle religioni di cui vogliono parlare, ma non io, non qui. Tu sei qui per il tuo salvataggio e io faccio del mio meglio per aiutarti con questo. Ti ho detto che Malkut è presente in ogni essere e questa Malkut non può ricevere la luce. Chiaro? Non importa se sei un uomo o una donna, sappi che anche i santi più popolari avevano la loro Malkut, che non poteva ricevere la luce. Era nella sua idea anche prima che Adam fosse creato. Così è. Ogni Malkut de Malkut, prima i punti di forza del mondo e poi i punti di forza di Adam. Tutto è accaduto in questo modo. Chiaro? Cosa è stato raggiunto? Sai che è impossibile per la luce di andare sotto la Parsa. Sopra la Parsa, lì la luce può essere ricevuta, e sotto la Parsa, dove sono Binah, Zerampin e Malkut, la luce non può venire. In questo modo lui ha creato il salvataggio, la salvezza. Qui in questo mondo c'è la possibilità per il salvataggio e su quel salvataggio che voglio discutere con te. Prima la Malkut de Malkut fu nascosta nel Keter dell'intero generale Parzuf Keter. Lo speciale Keter è Keter de Keter, Kokma di Keter, Bina di Keter, Zerampin di Keter e Malkut di Keter. Ma ora sto parlando di Keter nel generale. La Malkut era nascosta nel Keter e Kokma del generale Keter. Qual è il significato più profondo della luce che non può arrivare al Kokma de Kokma, perché sai che Malkut de Malkut è sopra di lei? Quindi Kokma de Kokma non può ricevere la luce. Cosa significa? Perché il generale Kokma è vicino a Keter. Significa che entrambe sono forme di luce Kokma. La differenza è molto piccola, perché entrambi sono molto sottili. Entrambi non hanno il permesso di scendere. Quindi la domanda è: come può la luce venire a noi? In ogni parte di Keter e Kokma, la luce Kokma non può andare sotto la Parsa. Qual è la soluzione? Qual è stata la sua idea? Hai già imparato che il capo di ogni Parzuf è Keter, Kokma e Binah. Ma nel mondo Azilut qualcosa di speciale è stato fatto dal Creatore. Binah è stata portata giù per aiutare i suoi figli che sono Zerampin e Malkut. Ogni Sfira ha 5, quindi Binah ha il suo Keter di Binah, Kokma di Binah, Binah de Binah, Zerampin di Binah e Malkut di Binah. Non c'è differenza tra il superiore e l'inferiore. Nel superiore ne hanno 5, quindi nell'inferiore ne hanno anche 5. E poiché c'è una separazione nel superiore, così sarà anche nell'inferiore. Anche il Parzuf di Binah è separato. Il suo Keter e Kokma sono la testa, la sua parte superiore, poi la separazione e la sua parte inferiore, Binah, Zerampin e Malkut. Lo stesso in Zerampin. Zerampin ha 5 Sfirot, Keter di Zerampin, Kokma di Zerampin, la parte superiore e poi la separazione seguita dalla parte inferiore. Binah di Zerampin, Zerampin di Zerampin e Malkut di Zerampin. Hai sempre solo 5 punti di forza divisi. Chiaro? Ora fai attenzione e vedi come in Malkut, perché c'è una leggera differenza. Malkut ha Keter di Malkut, Kokma di Malkut, e loro sono la sua testa e poi la separazione. I prossimi sono Binah di Malkut e Zerampin di Malkut. Non c'è Malkut de Malkut, perché lei è nascosta nell'alto Keter. Chiaro? Non importa se non puoi vedere o capire, perché verrà un momento in cui dici: ora capisco. Per ora sappi che anche tu hai 5 Sfirot. Dimentica a quale mondo, a quale livello potresti avere. Quale livello potresti avere? L'importante è sapere che hai 5 o 10 Sfirot. L'intero significato è che la tua Malkut de Malkut è nascosta proprio come è stato fatto nei mondi. Perché tu sei un mondo e grazie alla tua Malkut nascosta hai anche la possibilità di portare giù la luce in un modo molto speciale. Vorrei dirti come funziona. Sotto la Parsa questo non è possibile. Può essere fatto sopra la Parsa perché lì è possibile ricevere la luce, o è meglio dire sopra la parsa ti è permesso ricevere la luce. Quindi, se solo il ricevimento della luce può essere fatto sopra la parsa, come si portano tutti i 10 sfirot alla luce? Sopra la parsa, lì la luce è splendente, ma sotto la parsa c'è l'oscurità. Non pensare, questo è molto speciale, perché anche le religioni sperimentano la differenza, la parte superiore dove c'è la luce e la parte inferiore che è nell'oscurità la sola cosa è. Rimangono sotto la parsa perché pensano che la parte superiore non abbia bisogno di lavoro. E naturalmente un certo lavoro deve essere fatto sotto la parsa. È solo un lavoro individuale perché ogni persona ha le sue condizioni individuali. Qualunque sia la condizione, l'uomo deve lavorare considerando la sua situazione e dovrebbe corrispondere alle sue possibilità. Ogni persona deve scoprire cosa si adatta alle sue capacità. Questo è nel generale. Keter e Kokhma potrebbero ricevere un po' di luce, ma gli altri, Binah, Zerampin e Malkut, non possono. Così è. Ciò che è sopra la parsa sono chiamati Kelim del dare, e ciò che è sotto la parsa sono chiamati Kelim di ricevimento. Questo è lo stesso per tutti. Keter e Kokhma sono la parte superiore e la parte inferiore è Binah, Zerampin e Malkut. Keter e Kokhma fino alla metà e sotto la metà il resto. Ma cosa dice la religione? La religione ci ha insegnato che non c'è permesso andare sotto la cintola. E si dicono stai sopra la cintola, al centro, questa parte la puoi usare. E ciò che è sotto il centro c'è il diavolo. Si sentono persi, non hanno alcuna connessione con la parte inferiore. E ciò si applica per tutti i santi che essi hanno. Lui fugge in un deserto o in un monastero, ma ovviamente la sua parte inferiore va con lui. Non giudicare, fai attenzione a esprimere un'opinione perché i tempi non erano ancora maturi. Le anime non erano pronte, non potevano vedere o sentire il sistema miracoloso del Creatore, ciò che chiamiamo formula di salvataggio. Pertanto sono dovuti fuggire nel deserto. Qual è il significato più profondo di fuggire? Fuggirono da Keter e Kokhma per ignorare la loro parte inferiore. Quello è possibile? No. La loro parte inferiore è connessa con loro, parte di loro e non può essere ignorata. Ma cosa fa una persona religiosa? Usa solo il suo Keter e Kokhma. Presta attenzione, non pensare che Keter e Kokhma sono l'alta luce. Se hai letto attentamente questa e la prima lezione, sai che solo la luce può venire nella parte superiore di Kokhma. Quanti sfirot possono vedere la luce? Infatti, 2 sfirot perché ci sono 2 kelim, i kelim di Keter e i kelim di Kokhma. E le luci che entrano in questi kelim sono la luce Nefesh nei kelim Keter e la luce Ruach nei kelim Kokhma. Questo significa che la maggior parte dei tuoi kelim sono senza luce, rimangono nell'oscurità. E ricorda che questo è lo stesso per ogni persona. Nessuno può fuggire o ignorare questo fatto, nemmeno i più grandi santi. Cosa ha fatto un santo? Rimase connesso con la sua parte superiore. Ma cosa fa uno cattivo? Uno cattivo è colui che vuole ricevere in modo egoistico. Che cosa fa? Abbassa la luce, e quello era il peccato di Adam. Lui tirò giù la luce Chokmah mentre era proibito. Non aveva la forza di ricevere Chokmah. Se la luce Chokmah scende sotto la Parsa, ogni cosa è rotta. Tutto il bene, tutta la luce distrutta, e ciò che rimaneva era l'oscurità. Questo è il quadro generale. Adam e Chavah, Eva, nacquero in questo modo, solo in due sfirot, due kelim potevano ricevere la luce, e non sotto la loro parsa. Adam era nato in questo modo. Il Creatore parlò ad Adam dicendogli che gli era permesso di ricevere Keter e Chokmah, perché Keter e Chokmah, riguardo a ciò che lui disse, l'albero, lui aveva il permesso di mangiare da tutti i frutti disponibili in paradiso, eccetto dall'albero di conoscenza del bene e del male, che significa la parte sotto la Parsa. Non aveva il permesso di andare sotto la sua Parsa, ma Adam fece molte correzioni e ovviamente il serpente venne da sotto. Il potere del serpente non dovrebbe mai venire sopra della Parsa, in Keter e Chokmah. Perché? Quali sono le luci sopra la Parsa? Infatti, Nefesh e Ruach, ed entrambi, sono le luci di Chassadim, misericordia. Entrambi sono luci Chassadim, Nefesh la luce più piccola e Ruach che è un po' più leggera. Entrambi sono Chassadim, la luce del dare. Sotto la Parsa c'è il potere dei Klipot, e puoi vedere i Klipot come un serpente. Tutto ciò che è sotto la Parsa ha bisogno di Chokmah. Come mai? Ci sono Kelim più spessi, desideri più rozzi, e per soddisfare i desideri più rozzi hai bisogno di una luce più forte. Non puoi soddisfare i Klipot con una piccola luce di Nefesh o Ruach. Pertanto lui disse: stai sopra della tua Parsa, ricevi nei tuoi Kelim di Keter e Chokmah, ma non andare sotto la tua Parsa. Lui sapeva che Adam non era abbastanza corretto. Lui sapeva che Adam non poteva resistere alla tentazione dei Klipot, del serpente. Gli era concesso di ricevere da Keter e Chokmah, ma non più giù. Se fosse andato più giù, avrebbe incontrato l'immenso desiderio per la luce, e non era pronto. Se non sei pronto, il serpente ti sedurrà e ti parlerà dicendo: porta la luce giù, perché il serpente sa che questo ti darà un sentimento meraviglioso e ti dirà: è buono per l'obiettivo della creazione. E ovviamente è per l'obiettivo della creazione che lo rende così pericoloso, perché è un buon argomento. Il serpente ti dirà che se tiri giù la luce puoi riempire i tuoi cinque sfirot, e che rende certo l'arrivo del Gmar Tikkun, la correzione finale. O è intelligente, sii consapevole, il serpente userà il tuo intelletto per consigliarti. Questo lo fece anche con Adam, e Adam non fu permesso di ascoltarlo. Gli fu permesso di ascoltare, ma non aveva il permesso di entrare in azione. Adam e Havà videro l'immensa forza che era sotto la loro parsa. Devi sapere che la forza che è sotto la tua parsa è enorme. Binà, Zerampin e Malkut, la loro forza è immensa. Ma cosa succederà se vai sotto ma non puoi ricevere la luce? Poi ci sarà solo un po' di Hassadim, la forza di dare. Questa forza è una forza piacevole, carina, ma non la forza per raggiungere l'obiettivo della creazione. È chiaro? Adam tirò giù la forza da sopra a sotto, perché vide quanto era piacevole l'albero della conoscenza del bene e del male. Fu sedotto dal serpente. Non aveva la forza di resistere al serpente. Così portò giù la luce e direttamente lui era nell'oscurità. Il creatore gli disse: «Dove sei, Adam?» Insieme con Havà si nascosero perché provavano vergogna. «Se vai giù e non sei pronto, senti vergogna, proprio come Adam e Havà. Sappi che in Keter e Kokhmah non c'è vergogna. Come mai? Non esponi te stesso da sopra. Ecco perché la religione ti insegna. Stai sopra in Keter e Kokhmah e non andare giù, perché c'è vergogna e miseria». E hanno ragione, ma il problema è che non possono darti la formula giusta perché non ce l'hanno. Non c'è una religione che abbia la formula per aiutarti con il tuo adempimento, e so di cosa sto parlando, perché ho cercato in tutto il mondo, ho guardato ovunque in ogni religione, ma nessuna di esse. Ecco, è così. Keter, Kokhmah, la parsa o la separazione, Binah, Zeirampin, Malkut. E per questo non puoi ricevere la luce sotto la parsa. È chiaro? Keter, in questo Keter è nascosta Malkut de Malkut. Poi c'è Kokhmah, la parsa, Binah, Zeirampin e Malkut. Kokhmah, Keter, Kokhmah, Parsa, Binah, Zerampin, Malkut. Parsa, Binah, Keter, Kokhmah, Parsa, Binah, Zerampin, Malkut. Zerampin, Keter, Kokhmah, Parsa, Binah, Zerampin, Malkut. Malkut, Keter, Kokhmah, Parsa, Binah, Zerampin. Sappi che non è facile immaginare lo spirituale perché abbiamo a che fare con una certa limitazione nell'espressione. Questo è come era all'inizio, ma nel mondo Azilut lì è diverso. Vediamo com'è nel mondo Azilut. Keter di Azilut, Parzuf Keter, Keter, Kokhmah, Parsa, Binah, Zerampin e Malkut cadono giù nel Parzuf Kokhmah. In questo puoi vedere che c'è sopra la parsa Keter e Kokhma e sotto la parsa c'è Binah, Zerampin e Malkut, cadono giù. Binah, Zerampin e Malkut dell'Azilut, la parte inferiore di Azilut, cade giù in Kokhma. In Kokhma è Keter e Kokhma. Binah, Zerampin e Malkut cadono al prossimo Parzuf di Binah, Parzuf Kokhma, Keter, Kokhma, Parsa, Binah, Zerampin e Malkut cadono giù nel Parzuf Binah. E così via. In questo modo il creatore ha creato un sistema che è diventato possibile che l'inferiore, supponi che un grado inferiore, abbia la forza di fare una connessione con Binah, Zerampin e Malkut del grado superiore, o in altre parole l'inferiore ha il desiderio di fare una connessione con il superiore. Cosa accadrà? Allora Binah, Zerampin e Malkut ricevono un maggiore impulso per ascendere più in alto nella loro parte superiore, sta significando a loro Keter e Kokhma. Come già sai, non c'è scomparsa nello spirituale, quindi, come la parte inferiore di un grado superiore è stata al piano di sotto in un grado inferiore, sai che è già collegato con il grado inferiore. Come? La parte inferiore del superiore è connessa con la parte superiore dell'inferiore, sempre. In altre parole, Binah, Zerampin e Malkut del superiore sono collegati con il Keter e Kokhma dell'inferiore. È chiaro? Se Binah, Zerampin e Malkut ascendono, sai che portano con loro anche la loro parte superiore. Tutto ascende, l'intero Parzuf ascende, è chiaro? Questa è già una forma di correzione. Una volta ti ho dato un esempio di assistente sociale che era coinvolto e si occupava di giovani. Si vestiva come loro e divenne uno di loro per aiutarli. In questo modo poteva ottenere la loro fiducia e una volta che aveva la loro fiducia poteva aiutarli, perché erano già attaccati a lui. Nel momento in cui erano attaccati, poteva mostrargli il suo superiore, perché in realtà apparteneva a un grado superiore. Lentamente li ha portati in un altro posto, per portarli ad esempio in una biblioteca. Non pensare che avrebbe potuto portarli tutti con lui, solo i Keter e i Kokhma che erano pronti, che avevano la forza dentro per impegnarsi con lui. Solo il migliore, è chiaro? La stessa cosa che puoi vedere nell'esempio sopra. Che cosa è successo in Azilut? Keter e Kokhma sono sopra la Parsa, il luogo in cui la luce splende, e Binah, Zerampin e Malkut, che erano sotto la Parsa, scesero giù a un grado più basso. Cosa è accaduto? Se ci sono 5 Sfirot e tutti loro sono corretti, parliamo di Gadlut, la grande condizione. Gadlut significa che tutti e 5 gli Sfirot di un Parzuf sono corretti. Se Keter e Kokhma sono nella parte superiore e la parte inferiore cade giù, possiamo parlare di Gadlut? Quante luci ci sono sopra? Solo 2 luci e quello non è Gadlut. Quanti Kelim sono al piano di sotto? Tre Kelim sono sotto per ricevere tre luci, ma non cinque. In questo puoi vedere che entrambi hanno carenza. Sopra la Parsa ci sono le luci di Nefesh e Ruach, e sotto la Parsa c'è carenza, perché queste due luci non ci sono. Nel momento in cui essi sono di nuovo collegati tra loro, solo allora puoi parlare di Gadlut, perché poi sono insieme. Ti è un po' chiaro? Nel mondo Azilut, Keter e Kochmah rimangono sopra, e Binah, Zerampin e Malkut cadono sotto. Nel momento in cui un grado inferiore ha la forza e fa una connessione con la parte inferiore del superiore, è abbastanza. In questo puoi vedere com'è importante il desiderio. Se c'è il desiderio, prova a vedere il desiderio come una colla che si attacca al superiore. Cosa accadrà? Il grado superiore ti sposta sopra, alle qualità del grado superiore. In questo vedi com'è importante attaccarti con la parte inferiore del grado superiore. È incredibile quello che sto cercando di dire. Non ti preoccupare, solo ascolta, leggi e lascia che le vibrazioni delle parole ti facciano incisioni. Fino a questo momento tutta l'umanità è stata privata di questa informazione. Puoi immaginare migliaia di anni che è già noto e tuttavia non c'è una persona che potesse dirlo. Per darti un'idea di quanto sia difficile, c'è sempre il pericolo per il mentale, l'intelletto che vuole interferire. Posso solo chiederti di avere fede, fede che un giorno ti succederà. Adesso presta attenzione, non è facile, ma con l'aiuto dall'alto andremo avanti. Ricorda solo che non combatti contro le mie parole durante la lezione. Non sto parlando di persone, solo di punti di forza. Punti di forza che si rifiutano di correggersi e di non correggere il mondo. Devi ricordarlo molto bene. Non proiettare mai le mie parole su altri, ad esempio cristianesimo o ebraismo, solo su te stesso. In me c'è anche il mondo Azilut. Hai Azilut, e quando parlo di Azilut sto parlando di una parte nascosta in te, e tu hai visto che nessuno può ricevere da Keter e Kochmah fino all'arrivo del Messia. Keter e Kochmah sono inconcepibili. Keter e Kochmah sono la parte incomprensibile. Binah scese giù dalla testa, e sotto Binah ci sono Zerampin e Malkut. Come già sapete, ci sono due punti di forza nell'universo: Chassadim, misericordia, e Gvurot, severità. Poiché la Malkut de Malkut ascese a Keter, ogni cosa fu divisa in due. Keter e Kochmah sul lato destro con Chassadim, e sotto di Keter e Kochmah sono i Gvurot. In questo vedi che i Gvurot sono venuti dopo in esistenza e non sono nella testa. Anche Binah è divisa in due, ma perché Binah è Chassadim. Ti ho detto che Chassadim è una forza orizzontale e Chokhmah è una forza verticale, proprio come la forza maschile. Una forza maschile è da sopra a sotto e la forza femminile va in larghezza. Chesed è una forza che va in larghezza. Concentrati. Binah ha Keter e Chokhmah sul lato destro. La sua parte inferiore è Binah, Zerampin e Malkut. E caddero nel Keter e Chokhmah del generale Zerampin. Da questo punto inizia l'intera correzione. La luce Chokhmah è nascosta. Solo Keter e Chokhmah possono ricevere la luce Chokhmah. Binah è Chassadim. La qualità di Chassadim è dare, Chesed. Chokhmah cadde giù per aiutare l'inferiore. Naturalmente Binah ha 5 Sfirot, nonostante il fatto che lei è scesa giù. Keter ha 5 Sfirot. Chokhmah ha 5 Sfirot. Quando tutti e 5 sono uniti, è chiamato Gadlut. Binah non vuole ricevere, quindi Binah non ha cura di dove è. Se è di sopra non vuole ricevere, e quando è di sotto non vuole ricevere. Non vuole mai la luce Chokhmah. Ovunque sia, lei ha Chassadim. È scesa solo giù per dare agli Sfirot inferiori la possibilità di fare correzioni. Questo modo è stato fatto nel mondo Azilut. Il generale Binah Aketer, Chokhmah, Binah, Zeirampin e Malkut, e tutti sono la qualità di Binah, Chassadim. In Binah c'è anche una separazione, che significa che Keter e Chokhmah sopra e nella parte inferiore ci sono i 7 Sfirot inferiori, 6 da Zerampin, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Chod e Yesod, e la 7ª Malkut. Un'altra disposizione è stata fatta qui, e cioè una parte superiore di Binah e una parte inferiore di Binah. La parte superiore contiene i 3 primi Sfirot di Binah e la parte inferiore è caduta giù. Così anche Binah era divisa in 2. Per Binah non è importante dove lei sia, perché ha solo la forza di dare. Ora state attenti, perché questo è molto importante. La Binah superiore è chiamata Abba Ve'ima, o in parole più popolari, padre e madre. La sua parte inferiore è chiamata Israel Saba et Vuna. Israel Saba et Vuna. Qui sotto c'era un'altra disposizione, ossia i 7 Sfirot di Israel, Sabah e Tvunah. Stanno costruendo nello stesso modo. Keter e Chokhmah rimangono nella parte superiore e i 7 inferiori cadono giù a Zerampin. È molto importante che tu ti concentri perché può essere confuso. Ovunque è la stessa classificazione, anche in Binah, sebbene lei ha il suo Keter, Chokhmah, Binah, Zerampin e Malkut. Ma Binah è senza separazione, perché lei è Chassadim e in Chassadim non c'è separazione. Cerca di capire. Chassadim può essere ovunque. I Chassadim di Binah non sono influenzati dalla Parsa. Binah non preoccupa dove sta, perché lei è Chassadim. La Binah superiore è Gadlut. Keter ha 5 Sfirot, Kokma ha 5 Sfirot e anche Binah ha 5 Sfirot. Lei è scesa solo giù con i suoi 5 Hasadim. Perché non gli importa dove si trova, se sopra o sotto, sono tutti e 5 Hasadim e possono stare ovunque. In altre parole, non è limitata. Certo, lei ha una parsa, ma la sua parsa non ha valore, perché i Hasadim possono essere ovunque. Chiaro? I 7 Sfirot inferiori di Binah ci sono. 7 inferiori significa Zeirampin e Malkut e hanno bisogno di Kochma. I 7 Sfirot inferiori di Binah sono anche chiamati Israel, Saba e Tvuna. Da dove viene questo nome è per più tardi. I 3 Sfirot superiori hanno dentro 5 Sfirot. Lo stesso con i 7 Sfirot inferiori. Anche loro hanno la stessa divisione. Keter, Kokma, Parsa, Binah, Zeirampin e Malkut. Ancora una volta, la Binah superiore è chiamata Abba Ve'ima e hanno 5 Sfirot completi dei 3 Sfirot generali di Binah. Questi 3 Sfirot generali di Binah hanno i loro Sfirot e i 7 Sfirot inferiori di Binah hanno anch'essi i loro Sfirot, ma con una piccola differenza, e cioè Keter e Kochma stanno sopra e Binah, Zeirampin e Malkut cadono nel generale Zeirampin. Binah scende giù perché Zeirampin e Malkut hanno bisogno di Kochma. I primi 3 Sfirot di Binah non hanno bisogno di Kochma, perché a loro non fa nulla dove sono, sopra o sotto. Basta leggere, niente stress. So che non è facile. Ricorda che molti di coloro che stanno imparando la Kabbalah hanno bisogno di molto tempo. È più uno studio a lungo termine. Perché Binah ha 5 Sfirot? Binah ha 5 Sfirot perché qui in Atzilut c'è l'intera correzione, che implica che la luce è ridotta e i Kelim sono aumentati. In questo modo l'inferiore può ricevere luce. Qui in Binah i suoi 3 Sfirot superiori sono divisi in 5 Sfirot e anche i suoi 7 Sfirot inferiori sono resi più ampi e da loro la Binah, Zeirampin e Malkut cadono giù in Zeirampin. In questo vedi che non è la testa di Binah che cade giù, ma la sua parte inferiore cade in Zeirampin. I suoi 7 Sfirot inferiori sono diventati un nuovo Parzuf e da questo nuovo Parzuf i 7 inferiori cadono in Zeirampin. In Zeirampin c'è Keter, Kokma, Binah, Zeirampin e Malkut. E l'inferiore di Zeirampin cade in Malkut. Ancora una volta gli Sfirot inferiori cadono nella Sfira sotto di loro, nella parte superiore della parte inferiore. È chiaro? Gli Sfirot inferiori del superiore caddero nel Keter e Kochma dell'inferiore. Ora presta attenzione, apri il tuo cuore e leggi attentamente. Sai già che Malkut de Malkut è nascosta nel Keter, quindi non c'è un Parzuf Malkut, e tuttavia parliamo di Malkut come se lei fosse lì. Questo può confonderti, ma lascia che la confusione faccia intagli. Certo che c'è Malkut, solo che non è completa. La sua decima sfira se n'è andata, eppure parliamo di Malkut. Cosa c'è sotto Malkut? Sotto Malkut ci sono le anime degli esseri umani, e ci sono Keter, Chochmah, Parsah, Binah, Zerampin e Malkut di diverse anime. Per mezzo del loro lavoro, le anime alte tirano su in cima le altre anime. Domanda: cosa c'è sopra le anime degli uomini? Risposta: Malkut. Gli sfiroti inferiori di Malkut, tutti noi siamo parte della parte inferiore di Malkut. I mondi. Sotto Azilut è Bria. In questo mondo ci sono le anime dei giusti. Tutte le anime alte sono dal mondo Bria. Domanda: la linea va al mondo Yetzirah e poi al nostro mondo? No, i tre inferiori di Azilut, Binah, Zerampin e Malkut. Usiamo il nome di Malkut, ma sai che Malkut non c'è. In un certo modo è un tipo di Yesod, ma è per dopo. Per ora diciamo che l'inferiore del superiore scende giù. Binah cade in Bria, Zerampin cade in Yetzirah e Malkut cade in Asiyah, nelle anime presenti in quel mondo. Vedi che tutte le anime presenti in questo mondo appartengono a un mondo cui appartengono le loro anime. Persone divine molto spirituali, persone che sono molto alte, non possono insegnare. Non sono così in alto, mi viene dato di insegnare la Kabbalah, ma so che ci sono altri così in alto, oltre la mia comprensione, ma non insegnano. Ci sono persone la cui anima è già in Bria. Sanno di avere la possibilità di aggrapparsi alla parte inferiore di Malkut. Ci viene dato di fare lo stesso movimento. Tutti noi dobbiamo muoverci attraverso tutti questi mondi fino a questa Malkut, ma può essere fatto solo come un'istantanea, mentre le anime che sono permanentemente in Bria possono farlo regolarmente. Per noi è solo di tanto in tanto, ma mentre stai leggendo ti connetti con il superiore e puoi viaggiare attraverso i mondi e arrivare nella parte inferiore di Malkut. E questa Malkut ti porta ad Azilut. Guarda cosa abbiamo fatto. Questo è così importante e contiene migliaia di pagine di Zohar. Tutti noi arriveremo al traguardo. Tre cose si fanno sempre nella correzione. La Binah superiore è incomprensibile. Israel, Saba e Tvunah, Zerampin e Malkut, devono essere compresi. Chi tira su e si prende della correzione? Ancora una volta, in seguito, il linguaggio cambierà, ma per ora devi sapere di appartenere al primo gruppo in questo mondo che sperimenta lo spirituale senza immagini e senza figure e impari la vera realtà. Questo è meraviglioso e tutto questo sta accadendo in questa città nei Paesi Bassi. Ci sono sette sfirot inferiori di Binah di cui ho già parlato e ci sono Israel, Saba e Tvunah, Zerampin e Nukva. Quei tre lo fanno sempre nella correzione. Dall'interno il mio corpo sta vibrando. Puoi immaginare come vibro dall'interno. Tutto il mio corpo sente che non mi prendo cura del corpo. Ma tu devi considerarmi e poi va tutto bene. Insieme andremo avanti, anche se sto sudando dall'interno. Mia moglie deve lavare quei vestiti e io devo lavarmi, ma questo è così. Non pensare che sia difficile. Nel momento in cui capirai, diventerai vivo. Keter e Kokhma sono nascosti dall'alto e sotto di essi ci sono i tre Sfirot superiori di Binah, che fanno 5 Sfirot, un Parzuf. Sotto quei tre Sfirot superiori di Binah ci sono i 7 più bassi di Binah e sono chiamati Israel, Saba e Tvunah. E anch'essi hanno 5 Sfirot. Ora li useremo. Binah, Zerampin e Malkut provengono dalla più bassa Binah, sotto nel Keter e Kokhma di Zerampin. I 7 più bassi diventano 10? Esattamente. Quindi è fatto in Azilut per fare i Kelim più grandi. Perché abbiamo bisogno di Kelim più grandi? Per la ragione che puoi avere di più. L'intero Azilut è costruito per fare i Kelim più grandi, così la creazione può avere più luce. 2 Parzuf sono già formati da Binah, perché invece di 5 Sfirot dell'intera Binah, ora ci sono 5 Sfirot completi della Binah superiore, un intero Parzuf. E dalla Binah inferiore sono diventati 5 Sfirot, e questo è anche un intero Parzuf, è diventato più grande per sopportare la luce. L'intero significato dei mondi è di renderli più ruvidi, così la creazione può sopportare la luce. La prima correzione è stata fatta nella Binah più bassa. Dico Binah, ma effettivamente sono Israel, Saba e Tvunah. Come funziona? Keter e Kokhma di Zerampin hanno alcuni punti di forza per prima Binah, Zerampin e Malkut di Binah caddero. Il creatore lo ha fatto in questo modo, in Binah. Il Parzuf di Binah è stato diviso in 2. Binah, Zerampin e Malkut caddero in Zerampin e ora Zerampin costruisce una certa forza per fare una connessione con Binah, Zerampin e Malkut, considerando i punti di forza, e poi si verifica quanto segue. Zerampin si sveglia per fare una correzione. Ti ho detto che nulla viene da sopra se non è generato da sotto. Israel, Saba e Tvunah tirano su i loro Binah, Zerampin e Malkut, e insieme a loro Keter e Kokhma di Zerampin. È chiaro? Perché? C'è una legge. E più tardi sentirai questa legge. Se un grado più alto scende a un grado più basso, il grado più alto diventa come inferiore. Ricordi l'esempio dell'assistente sociale. Se un inferiore va a un superiore, diventa come il superiore. Chiaro? Se l'inferiore fa un movimento per il bene, diventa come il superiore. Significa che assomiglia come alla parte inferiore del superiore. Chiaro questo? Quando un inferiore si risveglia per il bene, le sue caratteristiche aumenteranno, assomiglieranno alla parte inferiore del superiore. Una volta che sono allo stesso livello, la parte inferiore di Binah si tira su, e ora sono molto vicini l'uno all'altro. Keter, Kokhma di Zerampin sono attaccati l'uno all'altro e tutti loro vanno su. Perché? Non c'è scomparsa nello spirituale. La parte inferiore di Binah, Zerampin e Malkut, si tirano su e insieme con loro anche Keter e Kokhma vanno su. È molto importante conoscere le leggi spirituali. Se arrivi a un certo livello, sappi che non scompare mai. In un certo modo, avrai sempre un avvocato. Se fai una buona azione, significa che sei venuto al superiore e lui si appellerà per te. Nel vero spirituale è così. E Binah, Zerampin e Malkut sono venuti sopra. Il lato destro da Israel, Saba e Tvuna. Quando è il lato destro e quando è il lato sinistro? Fai attenzione. Binah, Zerampin e Malkut caddero giù in Zerampin. Le caratteristiche dell'assistente sociale che è venuto nella banda non sono danneggiate dalla banda. Lui ha mantenuto la sua qualità, lo stesso qui. Binah, Zerampin e Malkut non si sono danneggiati. Binah è Chassadim, misericordia. Ed è possibile danneggiare Chassadim? Non c'è modo. Quindi tira su la sua Binah, Zerampin e Malkut e rimangono con i loro Chassadim a Keter e Kokhma. Giusto significa Chassadim, perché Chassadim non è stato danneggiato nel tempo in cui è caduto giù. Ma dall'altra parte lei si è fusa con il Keter e il Kokhma del livello inferiore, e anche loro salgono. È chiaro? Ci sono due parti, la parte destra che appartiene alla parte inferiore di Binah va su e l'assistente sociale va nel suo ambiente sociale e non viene danneggiato. Sta significando che dopo una giornata di lavoro va a casa, cambia i suoi vestiti e si comporta ora diversamente. Ora è quello che è diventato più basso perché durante il suo lavoro è stato mescolato con persone sociali inferiori? Ovviamente non ha perso nulla, ora ha qualche extra, ossia esperienza. Binah, Zerampin e Malkut sono lasciati, come Gvurot, Kokhma. Perché Kokhma? Come ti ho detto, ci sono due pilastri, ossia Keter, Kokhma, Parsa, Binah, Zerampin e Malkut. La stessa separazione che puoi vedere qui a Chassadim, solo parallela a Chassadim. Nella destra di Chassadim c'è Binah, Zerampin e Malkut che salirono e insieme a loro anche Zerampin che era collegato con Binah. Zerampin e Malkut. Al piano inferiore erano collegati e non c'è nessuna scomparsa nello spirituale, è chiaro? Sotto erano collegati, quindi se uno va su, anche l'altro va su, perché si attaccano insieme. Così anche Keter e Kokhma di Zerampin salgono. Nel disegno puoi vedere che lo disegno al centro. Perché non a destra o a sinistra? Lui è meno di Binah? La ragione per cui l'ho fatto è perché anche Keter e Kokhma sono Chassadim, pertanto più vicini alla destra. Ma i suoi Binah, Zerampin e Malkut sono sotto e collegati con Keter e Kokhma della Malkut. Siamo arrivati agli ultimi minuti della lezione. L'energia sta aumentando, quindi quello che sto per dirti, sappi, è molto più alto. Quei due sono saliti e a Binah sono arrivati due pilastri. Ti ricordi la storia del Mar Rosso, Rizzea in ebraico, Rizzea? Il popolo di Israele poteva camminare attraverso il mare. Israele è Zerampin, nella destra ci sono cinque Sfirot, è diventato Gadlut, e a sinistra c'è anche Gadlut, nella sinistra c'è Kochma. Perché Kochma e non Gvurot? La ragione di ciò è perché è Binah, e Binah è proprio come Kochma. Sinistra è Kochma e destra è Chassadim. Nella destra ci sono cinque Sfirot di Chassadim, misericordia, e nella sinistra ci sono cinque Sfirot di Kochma. C'è solo un piccolo problema. Malkut, Zerampin e Binah, che sono venuti da sotto, non possono sperimentare Kochma senza Chassadim. Tutto ciò che viene dal basso non può sperimentare Kochma come la qualità di Kochma se non c'è Chassadim, o in altre parole, senza Chassadim Kochma non può essere sperimentato. Come mai? Tutto ciò che è sotto la Parsa ha a che fare con i Klipot, le forze impure. Se potessero ricevere Kochma direttamente, chi ha il profitto? Infatti, le forze impure. Pertanto il Creatore ha previsto che ciò non sarebbe accaduto. Se l'uomo potesse ricevere Kochma senza Chassadim sotto la Parsa, avrebbe peccato proprio come Adam, e per questo non avrebbe visto la luce. Allora anche lui dovette nascondersi. Cosa disse il Creatore? Adam, dove sei? Adam si nascose perché vide che aveva peccato. Guarda cosa è successo. Sopra la Parsa puoi sperimentare Kochma, ma non sotto la Parsa. Ciò che è sopra la Parsa non ha bisogno di Chassadim per sperimentare Kochma, per il motivo che non ci sono Klipot, che significa che non ci sono danni quando sperimenti Kochma. Comunque, sotto la Parsa è una storia diversa. Sotto la Parsa ci sono i Klipot, le forze impure, così se Binah, Zerampin e Malkut salgono e sono già stati sotto, sappi che sono cambiati, sta significando che guardano con occhi diversi al loro ambiente, perché ha ereditato qualcosa da quando era al piano di sotto, dai desideri pesanti. La parte inferiore di Binah significa la sua Binah, Zerampin e Malkut, che erano venute su, non possono sperimentare Kochma, perché Chassadim non c'è. Ricordi, sopra la Parsa c'è la luce, ma sotto la Parsa Kochma non è permesso di venire, quindi non c'è luce sotto la Parsa. Così il Creatore lo fece, ed è grandioso perché ora insieme a Binah, Zerampin e Malkut, il Keter e Kochma di Zerampin ascendono. Dato che Keter e Kochma sono sopra la Parsa, la loro qualità è superiore e possono lavorare sopra nella Parsa. Cosa accadrà? Da destra la luce entra con la qualità di Kochma e arriva al livello massimo, il Masach di Zerampin. E quando ciò accade, la luce Ruach può essere ricevuta. Quando la luce di Zerampin è riflessa, allora hai due sfirot e non puoi ricevere due luci, nefesh e ruach. Anche ruach è una forma di chassadim. Nella destra ci sono cinque chassadim e nella sinistra ci sono cinque gvurot. Chassadim non aveva il dominio, ma ora, quando c'è un extra, lei ha chassadim. Puoi confrontarlo con una scala. Questo è ciò che accade. Zerampin riflette la luce e da sopra sotto viene chassadim. Il chassadim arriva nella parte inferiore e appena arriva chassadim c'è la possibilità di sperimentare Chochmah. La parte inferiore che c'è sotto la Passà significa Binah, Zerampin e Malkut. Non riuscivano a sentire Chochmah perché Chassadim non c'era. Sappi che Chassadim è una specie di nave e dentro questa nave può essere sperimentato Chochmah. Questo Chassadim viene da sopra. Chassadim e Chochmah vengono sempre da sopra. È vietato per Chochmah andare direttamente di sotto, altrimenti gli uomini peccherebbero proprio come Adam fece. Ti ho già detto che nulla può venire dall'alto se non viene dal basso. È Zerampin che causa la terza linea, la linea nel mezzo. Questa linea di mezzo è causata da Zerampin che è salito. La linea nel mezzo è la linea dei Chassadim e in questa linea c'è un po' di splendore di Chochmah. Questa linea può andare in basso, perché? La ragione di ciò è che il Chochmah è incorporato dentro la nave di Chassadim. Dall'esterno c'è misericordia e dall'interno c'è un po' di Chochmah, quindi è permesso ricevere da questa linea. Questo è ciò che si intende quando si parla di ricevere kosher, è chiaro? Due linee, destra e sinistra, e Zerampin che ha causato la linea nel mezzo. Qui nella linea di mezzo non c'è Chochmah né Chassadim. È un piccolo Chassadim e un po' Chochmah. E poiché Chochmah è incorporato dentro Chassadim, può essere ricevuto. La linea di mezzo è sempre la linea di mezzo sopra è stata causata da Zerampin. Quando stai facendo qualcosa di buono da sopra, sappi che ti verrà come un boomerang. È Zerampin che riceve la luce e va in basso sopra la Parsa, che significa che prende Chassadim con lui, dove è incorporato un po' di splendore di Chochmah. E a causa di questo, lo splendore di Chochmah può andare a loro chi lo vuole e chi sono. Sono Malkut e le anime degli esseri umani che sono sotto Malkut, che sono desiderosi per Chochmah, e attraverso la linea nel mezzo arriva a loro. È chiaro? So che non è semplice, ma ci sarà un giorno in cui avrai l'esperienza, ma per ora è sufficiente se capisci un po' il principio. Ogni parsuf ha una parte superiore e una inferiore. La parte inferiore scende. Questo è il principio di Azilut. Se una persona attiva la sua parte superiore, e ora puoi vedere quanto importante è questo, lui lascia salire la sua parte inferiore del superiore e la prende con lui. Questo può accadere perché era attaccato alla parte inferiore del suo superiore. Quindi anche lui sale. In questo vedi ci sono due pilastri e questo è ciò che è scritto nella Torah. che il Rizea, Mar Rosso, è stato diviso. Il popolo di Israele è Zerampin, e quando l'acqua fu divisa, Zerampin poteva fare zivug con la venuta della luce, e per questo il popolo poteva passare lungo i due pilastri verso il basso. Tutto ciò che fa Zerampin è causare nel superiore la linea nel mezzo, e per questo c'è Shalom tra la linea destra e la linea sinistra. La linea destra cerca solo Chassadim, cerca misericordia, e la linea sinistra cerca solo Chokmah, saggezza, ma dal lato dell'intelletto. Entrambi combattono l'uno contro l'altro. A volte vince la destra e a volte vince la sinistra, come nel nostro mondo. Si potrebbe dire che destra è il bene e sinistra è il male. Quando Zerampin causa nel superiore la linea nel mezzo e lo porta giù, Chassadim, misericordia, non è più solo, ma lei ha anche un po' di Chokmah, saggezza. Un piccolo Chokmah viene nella destra e un piccolo Chassadim arriva nella sinistra. Prima c'era solo Chokmah nella sinistra, quindi non poteva essere sentito sotto perché aveva bisogno di Chassadim. Ciò che scende sotto la Parsa ha bisogno di Chassadim, altrimenti non può essere sperimentato. È chiaro? Più tardi sperimenterai, sentirai e quando ciò accadrà, ballerai e il mondo si aprirà per te se una volta si riconosce questa formula. Anche se sembra difficile e difficoltoso, più tardi la sentirai, l'esperienza. Non c'è un posto al mondo in cui si riuniscano così tante persone diverse, cristiani, ebrei e pagani. Tutti sono uno e qui non c'è separazione. Una volta che riconosci questa formula e la vivi, e con questa formula non vedrai alcun tipo di differenza tra le persone. Questo è il tuo salvataggio, e puoi, e vedrai che il Creatore è amore, bene, e fa solo bene. Shalom.